diceva Steve Albini, Angel. Trip Virus fase 2. Minuti dopo la mezzanotte, 25 o'clock, Radio Onda Rossa, The Black Angels, Science Killer, guarda caso. Dal sud della Francia, Trois Blancs. Onda rossa 87,9 della modulazione di frequenza della banda romane laziale 06491750. Onda rossa @ondarossa.info, www.ondarossa.info. Che la radio produce, ma anche per questi suoni, dai. C'è la campagna di radio abbonamento 30 per 1000. Basta andare sul sito www.ondarossa.info, cliccare sul banner. Siamo scuri e arrabbiati. La cattività non aiuta. Dovrebbe essere normale, no? E quindi dal sud della Francia verso di nuovo l'altra parte dell'oceano, The Sixth Organ of the Amitans. Due tracce per loro e poi pian pianino lasciamo. The Scout is here. We'll be right back. Ben Chasny, che non produceva, diciamo, da un po'. Pensavamo da più tempo, in realtà poi andando a scrutare bene l'elenco è foltissimo, anche delle produzioni non ufficiali, diciamo, non spinte in pompa magna dal 2016 a oggi. E sono uscite addirittura due pubblicazioni nel 2020. Questa Companion Rises, da cui andiamo ad ascoltare la evocativa Black Tea. Anche Haunted No, sempre per Six Organs of Omnitance. promise I should walk with love one day. Gotta talk about love, you say you love, why can't you share love? Every day by day, people talk about love. Bravo! We grumble, never stumble, not a. We looking noble, that noble king with his table. We looking on the stand, with the fire in the boots. In my chillin' with the rap, in the classic with the beat. When I drop shit like a seed, put off on the table. Just to make the things in all the school, the things in able. I'm able to novels, to make the things in trouble. Never stumble, see this land, line of track with my rapping beats. Radio Onda Rossa 25 o'clock ormai. Cagliolo, caina gano, fuma bico guano indilo. Se ho io buona, c'è zanuso. Cine can giua, caina. Quasi luna di notte. Ne si fumo wana, ci tigna, ieni herbe que quana. O bone la poalina, vobe caiga babuga. O bone yela, nyako, bone gege, nyeta. Bico li sa quan giua, caino, nato. Largo alle nuove leve, le nuove generazioni. Melo laye yen aye yi kere kan money kilo vanity upon vanity no winning love gun winning in love gun aye yi o lo gun melo le pe e gun money o kere gun why you gun dey waye maya bi pe o te tan gun eyin melo. Live with a peace of mind, with unity, take no fall. Africa to deal with, Africa to deal with. Only mercy be so, bravo Neil. Got it, man. Got it. Markings on my mind. Man at the crossroads. At odds with an angry sky. Ed è così che ce ne andiamo in odore di Blues Night. There can be, che salutiamo. Until all old customs. E Sign of the Ages, are put to the test. Eh sì. The gods are all angry. È proprio la cifra del nostro tempo. You Gil Scott Tiron from the breeze. As night slams like a hammer. Yeah, and you drop to your knees. The questions can't be answered. You're always haunted by the past. The world's full of children who grew up too fast. Let it begin tonight, we'll win. I'll share our dreams. I'll share.